Ci siamo sentiti telefonicamente non so quante volte, finalmente conosco Archivio Z, entrambi, grazie della disponibilità e bentrovati. Grazie a te di essere venuto. Buona giornata, evviva! Allora, cominciamo perché io approfitto, ho intervisto tutti in qualsiasi situazione. Bologna è estate, si comincia con questa rassegna che viene presentata quest'oggi, voi però siete già in attività, chiaramente, qui con Villaldini e con altre sedi quanto mai spettacolari e suggestive. Ci puoi dire qualcosa appunto sullo spettacolo di venerdì, sui percorsi e su quello che c'è in programma anche in relazione all'estate 2022, Gianluca? Allora sì, questa Bologna estate 2022, pensiero libero, noi la decliniamo sempre in osservanza appunto qui a Villaldini in questa rassegna multidisciplinare che inizia proprio domani, inaugurata dal debutto di Edipo Re. Edipo Re che avrà una quindicina di repliche tra la fine di maggio appunto e fine giugno. È un nostro spettacolo storico perché ha più di 10 anni, nacque nel 2011 per il Teatro Romano di Fiesole, lo vogliamo riproporre qui perché il tema dell'Edipo Re è l'uscita di una comunità, di una città, da una pestilenza. E quindi vogliamo, in qualche modo, attraverso questa tragedia, come se fosse una catarsi, una purificazione, ritrovarci in questa acropoli, questa villa neoclassica, che è un'acropoli contemporanea, con tutto il pubblico in un rito culturale. Beh, le citazioni per un amante del mito come me sono state, dal punto di vista emotivo, veramente molto suggestive. Allora, adesso ovviamente coinvolgo nella conversazione anche l'altra metà del cielo di Archivio Z. Anche a te grazie della disponibilità e benvenuta sulle nostre frequenze. Quali emozioni nel costruire questo percorso e soprattutto in attesa di tutto ciò? Le emozioni sono tantissime perché Pasolini aleggia su questa villa e quindi è stato proprio lui a portarci qui nel 2015 grazie a un suggerimento di Elena Pirazzoli. Quando abbiamo scoperto questo luogo abbiamo sentito che qualcosa ci chiedeva di rimanere, di accudire, di prenderci cura di questo luogo, e il percorso è stato lungo perché poi ci siamo ritornati proprio durante la pandemia e il dialogo con le istituzioni ci ha consentito di veramente rimanerci, e quindi adesso in realtà è un anno e mezzo che abitiamo questo luogo artisticamente e stiamo tentando di portare avanti la nostra idea, il nostro sogno. Il nostro sogno è quello che insomma stiamo tentando di realizzare anche quest'estate, cioè una rassegna di residenze, di artisti che vengono e stanno qui, fanno prove, incontrano il pubblico, regalano una loro performance piuttosto che un dialogo, piuttosto che uno stare proprio appunto in osservanza della città, ma anche venendo osservati dalla città. Quindi diciamo questa la rassegna poi prevederà tanti nomi che non sto ad elencare adesso e saranno poi disponibili sul sito e sui social. La cosa che ha guidato il tutto è stato il ritrovamento di queste fotografie incredibili a Pordenone nell'archivio Cinema Zero Images che abbiamo ritrovato appunto quest'inverno durante le nostre ricerche grazie alle indicazioni di Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna e a Roberto Chiesi, che ci hanno appunto indirizzato all'archivio di Pordenone, dove c'era un patrimonio, cioè Villaldini fotografata da Deborah Beer, che era la fotografa ufficiale del set di Salò, set blindato, set coperto di un alone di mistero e di paura, perché appunto si sapeva che era un film complicato. Quindi lei era qui nell'aprile del 1975 insieme a Pierpaolo Pasolini, proprio nei giorni della liberazione di Bologna. Chissà se è stato un caso. A volte il caso non esiste, però, come ben sappiamo. Tra l'altro, a proposito di caso, sapete, no, che da questo spiazzo le truppe napoleoniche, quando arrivarono, il condottiero dal suo cavallo, la leggenda narra che guardò la città e la definì superba. Da qui poi in seguito una famiglia bolognese importante edificò questa villa. E, insomma, sempre una ricerca di posti speciali per Archivio Z. Sì, il nostro lavoro lavoro è sempre a contatto e in bilico tra cultura e la natura. Per questo quest'anno abbiamo lavorato a contatto con Villa Ghigi affinché il parco fosse di nuovo fruibile, creando dei nuovi percorsi che saranno inaugurati a partire da domani, per cui le persone potranno passare, attraversare la villa, ma anche fare delle passeggiate all'interno del parco. Quindi sì, i luoghi sono fondamentali. Questo luogo è un luogo che contiene in sé una potenzialità enorme che speriamo nei prossimi anni venga valorizzata e ristrutturata, soprattutto nell'interno, la parte interna. Non mi resta che augurarvi una buona estate, ma anche un buon lavoro. Tanto, grazie. Grazie mille. Grazie a voi.